I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Sebastiano Barisoni. La decisione del governo italiano di chiedere all'Unione Europea l'esclusione di tutto il territorio italiano dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo presenta qualche interrogativo e forse qualche elemento di ipocrisia. Intendiamoci, l'Italia si è avvalsa di una facoltà che dà Bruxelles ai vari paesi di decidere se vietare al proprio interno la coltivazione degli organismi geneticamente modificati autorizzati a livello europeo oppure coltivarli. Nessuno mette in dubbio qui la bontà degli investimenti fatti nel settore biologico né la necessità di preservare in maniera ancora più forte la qualità della materia prima che utilizziamo per i made in Italy di carattere alimentare. Si tratta solo di capire se veramente tutta la ricerca e l'utilizzo degli OGM è negativa, se hanno ragione i ricercatori del CNR a sostenere che le coltivazioni OGM modificate garantirebbero un abbattimento dei pesticidi a partire dai fungicidi del 60-70%, e soprattutto non si capisce come faccia uno Stato a vietare la sperimentazione degli OGM riconosciuti dall'Unione Europea, ma allo stesso tempo ad accettare che il 90% dei mangimi che utilizzano i nostri allevatori sono geneticamente modificati provenendo da paesi, Spagna e Argentina su tutti, che gli OGM li utilizzano proprio per produrre sementi. Forse delle volte sarebbe meglio lasciare da parte le ideologie e le prese di posizione politiche per valutare, alla luce di quello che la ricerca scientifica ci dice, se anche dalla ricerca sugli OGM possa arrivare un elemento positivo per la nostra agricoltura. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La giornata delle borse si era aperta bene anche sulla scia delle parole pronunciate ieri sera a New York dal presidente della BCE Mario Draghi, che aveva parlato del ritorno dell'economia dei paesi dell'area euro a una crescita sostenuta. Crescita che, come sappiamo, si sta rafforzando proprio sotto l'impulso di Draghi, che con il suo quantitative easing, ovvero l'acquisto di titoli pubblici, sta iniettando liquidità sui mercati. Il clima però poi è cambiato quando poco fa dagli Stati Uniti è arrivato il rapporto sull'occupazione di settembre, rapporto che ha decisamente deluso le attese. L'economia USA ha creato 142.000 posti di lavoro contro i 200.000 attesi. Perché tanto allarme, visto che comunque la disoccupazione americana resta a livelli bassi? Il motivo è che i dati di oggi fanno sorgere dubbi sul fatto che la banca centrale americana, la Federal Reserve, possa alzare i tassi di interesse prima della fine dell'anno. Anzi, questi dati sul mercato del lavoro fanno pensare il contrario, cioè che la stretta sui tassi arriverà solo da marzo del 2016. Niente di male, certo, ma questo per molti operatori è il segnale che ci sono dubbi sullo stato di salute dell'economia mondiale. Le difficoltà della Cina, degli altri paesi emergenti, il calo dei prezzi dei prodotti energetici, l'inflazione che resta troppo bassa sia negli Stati Uniti sia in Europa. Molte incognite, troppe incertezze che ai mercati proprio non piacciono. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.